9 in punto. When the sandy rise and low on Broadway, when the sandy rise and so today. Che sta da fa? Qua c'è gente che dorme, questo è un convitto, non siamo al varietà. Mo ve lo dico per l'ultima volta, piantatela, altrimenti ve caccio via tutte e due. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a 9 in punto. Oggi non parliamo di amministrative, insomma, anche se i racconti li avete sentiti anche nei giornali radio e del resto sarebbe scorretto, perché ci sono zone della Sicilia nelle quali, incredibile a dirsi, a 18 ore dal voto, dalla chiusura delle urne, ancora non si ha il risultato definitivo, stanno ancora scrutinando. E quindi occupiamoci di altro oggi, però ci occupiamo sempre di amministrazioni locali. Partiamo dalla famosa vicenda del gelato di Pisapia, dell'ordinanza comunale che voleva vietare il gelato a passeggio dopo la mezzanotte, per parlare dell'estate che arriva e, come tutte le estati, le ordinanze dei sindaci, queste maledette ordinanze dei sindaci a proposito della movida. Insomma, c'è appunto l'ordinanza di Pisapia, poi in realtà è stata cambiata, il divieto parte dall'una di notte, c'è un divieto contro la movida che riguarda in particolare gli alcolici e la musica, che è stato varato a Palermo. Ne parleremo tra un attimo. Ne sono in vigore altri, ce ne sono in vigore per esempio anche a Roma, è stata rinnovata di recente l'ordinanza per l'estate. Vedremo che cosa farà Ignazio Marino nella sua nuova veste da sindaco. E parliamo di questo conflitto insanabile tra i comitati di quartiere, che naturalmente si arrabbiano perché sentono rumore sotto casa, e invece chi la notte se la vuole vivere, vuole bere, vuole divertirsi, e naturalmente anche gli esercenti che, come si diceva in anteprima, insomma, già si devono beccare, a proposito di alcolici, probabilmente un aumento dell'IVA di un punto percentuale. Poi vengono già da una crisi discreta, decine di negozi e decine di esercizi che chiudono, tra bar e non solo. E poi appunto si ritrovano anche le ordinanze dei sindaci, quindi ci sono anche naturalmente degli interessi economici in mezzo. Saluto giusto appunto Lino Stoppani, presidente della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Saluto anche Francesca Zajcic, docente di sociologia urbana all'Università Bicocca di Milano, tra l'altro collabora con il Comune di Milano, ma qua ce l'abbiamo nella sua veste appunto di docente, insomma, ecco, che ci aiuta un po' a far chiarezza in questo sistema. Buongiorno. Grazie di avermi chiamata. Saluto anche Marco Di Marco, assessore allo sviluppo e attività produttive e mercati del Comune di Palermo. Poi più avanti, buongiorno Di Marco. Buongiorno. Più avanti avremo anche l'assessore corrispondente, l'omologo al Comune di Parma, perché come sapete su questo ci sono state un po' di polemiche con la giunta Pizzarotti, perché è stata una delle prime ordinanze che hanno varato, era appunto un'ordinanza contro la movida. Dunque inizia l'estate, per fortuna, perché di questa pioggia non ne potevamo più, e partono anche queste ordinanze. Francesca Zajcic, allora, iniziamo da lei, se spero di pronunciare bene perché è un po' complesso il suo cognome, in tutta sincerità. Perfetto. Benissimo. Allora, c'è una sorta di sindrome NIMBY, not in my backyard, così come per le opere pubbliche grandi e piccole, forse anche da parte dei comitati di quartiere e dei cittadini che, insomma, alla fine, parliamoci chiaro, sono 3 mesi d'estate, insomma, si può anche resistere con un doppio vetro fatto bene. Allora, certamente la premessa è quella che ha fatto lei e che sappiamo, e che è un tema complicato, che mette in contrapposizione bisogni e esigenze molteplici e quindi è difficile da risolvere. Però effettivamente l'impressione è anche quella di una tendenza, diciamo, alla esasperazione, e parlo in termini molto generali, di una sorta di egoismo e di percezione, insomma, soggettiva, in alcuni casi di problemi ancora maggiori e, diciamo, disagi ancora maggiori di quanto poi non possano essere nella realtà. Faccio un esempio solo, poi mi fucileranno naturalmente i residenti a cui faccio riferimento, ma la polemica che va avanti in realtà da anni sui decibel dello stadio San Siro. Questa è stupenda, questa la adoro, allora, perché io questa roba dei residenti di San Siro contro Bruce Springsteen non l'ho mai capita, in tutta sincerità. Esatto, contro di lui, ma come dire, contro chi comunque no, quanti sono i concerti nel corso dell'anno che appunto raggiungono una certa entità di rumorosità. Che cosa gli vuole dire a questi, professore? Voglio dire, io mi ascolterei la musica, che magari per una volta, sì, forse mi arrabbierei un po', però è veramente proprio una situazione, diciamo, abbastanza limite tra un'esigenza personale e un momento, ecco, e su questo vorrei richiamare l'attenzione, un momento culturale in cui non è solo il tema della movida e dei giovinastri che fanno rumore. Io credo che questo tema della movida, in generale anche qui, dalle amministrazioni, soprattutto in Italia rispetto ad altre realtà di altri paesi, viene gestito anche con una, come dire, con una sorta di prevenzione, cioè quando noi facciamo gestire soprattutto questo tema, questo chiamiamolo problema, problema di convivenza civile, agli assessori alla sicurezza, perché molte volte in molte città è così, o eventualmente a quelli della sicurezza insieme agli assessori al commercio, per esempio escludiamo completamente un aspetto legato a quegli assessorati che si occupano di politiche giovanili e anche di politiche culturali. Voglio dire che ci deve essere una visione, come dire, integrata. Con ciò non è che l'integrazione, le sinergie, questi termini per forza risolvano il problema, per carità, figuriamoci. Però lei dice ci vuole è un approccio che potrebbe essere diverso. Ci vuole un ragionamento complessivo. Esatto. Ecco, su questo voglio proprio Marco Di Marco, assessore allo sviluppo delle attività produttive e mercati del Comune di Palermo, lo ricordo un'altra volta. Allora, ci dica un po' come si riescono a mettere insieme queste esigenze in una città, perché poi una città, anche una città come Palermo, vive anche di turismo, evidentemente, no? E di un turismo che può essere anche un turismo giovanile, un turismo che ha piacere a star fuori la notte, anche se non è giovanile tutto sommato, insomma, no? Perché magari d'estate uno si concede qualcosa di più. Ma noi riteniamo appunto che la movida sia sicuramente un'opportunità da salvaguardare e da gestire, certamente, e lo dimostra il fatto che da circa 8 mesi abbiamo istituito proprio una commissione che si chiamava una commissione sulla movida, che serviva proprio per definire delle regole di convivenza tra i residenti e gli stessi operatori. Alla fine di questo lungo lavoro condotto insieme a questo punto con il mio collega assessore Giusto Catania, che è l'assessore alla partecipazione, qui do una risposta alla professoressa che è intervenuta prima, abbiamo coinvolto tutti i soggetti che a vario titolo naturalmente riguardano la movida. E è stato prodotto naturalmente un regolamento che mette sicuramente delle regole a tutta una serie di questioni, dalla zonizzazione della città alla insonorizzazione dei locali, alla qualità dei servizi resi da questi locali. E alla fine riteniamo di avere fatto un regolamento che mette tutti d'accordo. Naturalmente questo regolamento deve passare dal Consiglio Comunale e nelle more il sindaco ha ritenuto doveroso predisporre un'ordinanza per affrontare la stagione, ordinanza che comunque media tra le richieste dei residenti e le esigenze di chi deve fare attività commerciale. Però non mi sembra che chi fa attività commerciale, a chi fa attività commerciale, a chi vive anche di questo mondo e di questi affari, l'ordinanza non sia piaciuta tanto. In sostanza che cosa prevede? Cioè c'è un divieto di vendita di alcolici, almeno in bottiglia, quel che ho capito, da una certa ora, e poi c'è una questione che riguarda la musica, no? Ma la questione è molto semplice, nel senso che si è proibita l'asporto delle bevande, non degli alcolici, e parliamo sempre di bevande in contenitori di vetro, per cui i bar, i pub possono continuare a vendere purché all'interno dei propri locali e comunque utilizzando supporti in carta o in plastica. Dopodiché non chiudono i locali continuano a rimanere aperti, lì relativo alla musica e alle 24 naturalmente la musica deve cessare per consentire ai residenti di riposare. Allora, voglio leggere, poi andiamo da Lino Stoppani, voglio leggere qualche messaggio che ci è arrivato sulla nostra bacheca Facebook, www.facebook.com/9in.radio24, su Twitter c'è qualcuno che mi accusa di essere fazioso da questo punto di vista, sì, lo ammetto, insomma lo sapete, io cerco sempre di essere equilibrato, su questa cosa sono fazioso. Ho abitato in un quartiere diciamo di movida milanese con un figlio e la cosa non mi ha creato alcun problema. Adesso ne ho tre, sono in una zona un po' più tranquilla, però insomma la cosa non mi ha dato fastidio. Lo fa anche Luciana Rappo e mi scrive sulla bacheca Facebook questa cosa. Vorrei sapere dove abita il conduttore, dichiara che in fondo sono solo 3 mesi estivi e si può sopportare coi doppi vetri. Ho abitato anche in una zona di quel tipo, sinceramente la cosa non mi ha dato fastidio, ripeto, sono fazioso da questo punto di vista. Ci scrive Matteo Marliari sulla bacheca Facebook: a me francamente infastidiscono molto di più le migliaia di campane a tutte le ore del giorno per le messe, i funerali e i matrimoni. Vabbè, insomma, queste sono cose. E Laura Biazon scrive: il problema del riposo però esiste ed è reale, te lo dice una che è stata svegliata da lavori di pulizia stradale che vengono compiuti con macchinari non idonei tutti i giorni tra le 5 e le 6, sabato e domenica compresi. Ecco, questa è una cosa che io francamente fatico a capire, cioè si può accettare di vivere praticamente accanto ad una strada a grande scorrimento, accanto ad una tangenziale, e non si può accettare di avere un po' di casino sotto casa. È questa la cosa che non capisco, insomma, spero di non essere fazioso in questo. Prima di andare da Stoppani, Loretta che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho già sentito che l'hanno accusata di faziosità e mi spiace, io ascolto sempre Radio 24, in particolare lei, e non mi è piaciuto che lei abbia definito maledette le ordinanze del sindaco, oddio, adesso non mi ricordo. Ma maledette era un modo, sì, insomma. Sì, e gli arcigni comitati di quartiere. Allora guardi, io abito in una strada veramente spaventosa da questo punto di vista e le assicuro che con un doppio vetro d'estate non si può resistere, oltretutto non dura solo l'estate ma tutto l'anno e comincia dalle 11:30 e finisce alle 6, anche 6:30. Io mi sono salvata personalmente perché ho speso 3.000 euro a stanza per fare dei vetri, perché assolutamente il doppio vetro, le assicuro che non basta. E devo anche mettermi i tappi nelle orecchie. Sento i miei vicini che sono disperati. Le ricordo che la mancanza di sonno è una tortura. E chi l'indomani deve affrontare un lavoro, comunque le incombenze di una normale vita quotidiana, se non riposa, e questo accade il venerdì, il sabato, la domenica, da noi anche il giovedì, perché fanno delle serate per degli studenti. Insomma, mi sembra veramente un modo non equo di approcciare la vicenda. Ripeto, io mi sono salvata, però ho dovuto anche mettere i condizionatori, quindi non è una questione di semplice doppio vetro. Grazie Loretta per la sua testimonianza. Come, insomma, come sente, diamo spazio a persone che la pensano così. Insomma, il fatto che io abbia una posizione non vuol dire che non accetti serenamente, appunto, le posizioni degli altri, come quella forse di Massimo da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io abito in provincia di Milano, a Brugherio, e ho comprato casa, i sogni di una vita, casetta con giardino in un piccolo condominio. Il locale a fianco al giardino ha cominciato a fare musica, dal lunedì alla domenica compreso, sempre. Sempre alta, e non si riesce a dormire. La casa ha 5 anni, quindi ha doppi vetri, persiane, qualsiasi cosa, ma d'inverno supera sia le persiane che i doppi vetri. D'estate non chiudo le persiane, ma le supera comunque. Purtroppo anche chiamando carabinieri non cambia mai niente. Questi signori hanno il potere dalla loro parte. Ho provato a vendere la casa per andarmene, ma la gente arriva, vede il locale, sente la musica e non me la compra. Qui sono costretto a subire questa situazione. Anch'io ho fatto la movida da giovane, però adesso ho 52 anni, mi alzo alle 5 del mattino e vorrei stare, non dico in silenzio, ma un po' tranquillo. Ho provato a chiedere di abbassare leggermente la musica, non c'è stato niente da fare. Grazie Massimo anche per il suo racconto. Allora, Lino Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è un conflitto insanabile questo tra voi e il popolo della notte, chiamiamolo così, da una parte, per citare una canzone, e i residenti. Tra l'altro questo è un argomento che si trascina da anni, e la federazione, aspettandosi anche per il 2013 l'accentuarsi di polemiche su questo tema, in tempi non sospetti, questa primavera abbiamo organizzato un convegno assegnando al professor De Rita, che è evidentemente una persona autorevole sopra le parti, la realizzazione di una ricerca dove si fa ad approfondire quelli che sono i temi sociali di stare insieme del fenomeno della movida. Ciò premesso, tutte le problematiche che nascono partono da lontano, nel senso che nel 1974, quando è entrato in vigore il testo unico di pubblica sicurezza che disciplinava la somministrazione di alcol fuori pasto, i punti di somministrazione, i cosiddetti bar o locali serali, in Italia erano 60.000. Ora, grazie alle liberazioni che tutti abbiamo sostenuto, promosso, e che la nostra federazione spesso criticava perché le nostre sono attività sensibili e i disagi che qualcuno ha già anticipato ne sono un esempio, oggi questi punti di somministrazione di alcol, per effetto della liberalizzazione che ha consentito un po' a tutti di fare di tutto, oggi sono diventati 400.000. È mancata quella che è la lungimiranza della politica, di una corretta disciplina del territorio, facendo attenzione che su certe attività che hanno evidentemente degli effetti indotti, come quello che stiamo approfondendo stamattina, vanno governate, per cui quella che è una programmazione qualitativa del pubblico esercizio, sono anni che la federazione la sostiene in tutte le sedi anche di natura politica, trovando molto spesso risposte contrarie a quelle che sono le proposte, per cui certamente la movida crea dei problemi e evidentemente la responsabilità di un presidente. Lei dice Stoppani, bastava una programmazione urbana decente, nel senso organizzi e i locali non li fai aprire a caso in qualsiasi posto della città, anche nelle zone residenziali, anche accanto a casa del nostro ascoltatore da Milano a Brugherio, ma li fai aprire dove decidi tu e nelle zone che decidi tu e che decidi di destinare anche a questo tipo di attività, che tra l'altro è un esempio che abbiamo visto abbastanza spesso, che ha girato un po' l'Europa, insomma, più o meno lo sa. Certo, alcune città italiane da questo punto di vista sono un po' più difficili per le caratteristiche urbanistiche che hanno. 9 in punto. Mondo di gelato, ci scrive un gruppo di fare per fermare il declino, quello di Vercelli, mi scrive su Twitter: vietare il gelato per impedire il rumore è come vietare le scale per impedire le cadute, fare per fermare il cremino. La battuta non è male, tutto sommato. Sentiamo Stefano da Parma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Salve lei. Ascolti, io sono un consulente di acustica da 25 anni. E devo dire che in questa trasmissione ho sentito una serie di inesattezze. La prima è che esistono delle leggi ben precise, a partire dalla legge quadro sull'inquinamento acustico del 95, di fronte alle quali se un organismo come l'ARPA o i vigili verificano un superamento dei limiti contenuti in queste leggi, l'amministrazione non è che si può sottrarre a una situazione di sforamento dei limiti di legge, deve emettere un'ordinanza. Questo tanto per chiarire, non è un potere discrezionale del sindaco. Se a fronte di una segnalazione dell'ARPA di un superamento il sindaco non fa qualcosa, si espone lui a un reato. Okay? Questo è il primo punto di partenza, non è che può decidere di non fare niente, perché nella nostra Costituzione c'è scritto ed è richiamato dalla legge quadro che queste sono leggi a tutela della salute e del riposo dell'individuo, quindi è un diritto primario, in primis. Secondariamente, io nei miei 25 anni sono stato dalla parte delle discoteche, dalla parte degli inquilini disturbati, dalla parte delle amministrazioni contro le amministrazioni, in cause civili, amministrative, tutto quanto. Le posso dire una regola fondamentale, che al 90% quando la gente si lamenta vuol dire che c'è un eccesso di rumore. Questo è fondamentale. E per rispondere alla sua obiezione, com'è che uno di fronte a una tangenziale non si lamenta e davanti alla movida si lamenta, è un fatto ben noto chi si occupa di acustica. Se il manto stradale è manutenuto correttamente, il rumore da traffico è un rumore lento, che cresce lentamente nel tempo, mano a mano che il veicolo si avvicina, e che diminuisce lentamente come intensità di livello. Il rumore derivante da attività di tipo antropico o da casse acustiche è un rumore fortemente impulsivo che, come per sua natura, scatena il risveglio delle persone. A differenza invece di un altro rumore più lento, che dopo un po' che uno ci si abitua, ci dorme sopra, nel vero senso della parola. Grazie, sì? Grazie Stefano anche per la spiegazione tecnica, ma davvero dico, Agenzia Momento, Agenzia Immobiliare Radio 24. Sentiamo Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi avete chiamato voi. Perché perché ha mandato un sms dicendo che la casa a Brugherio, la casa di Brugherio la vuole comprare lei. Sì, nel senso il messaggio era scherzoso, però c'è un fondo di verità, nel senso che io faccio il DJ, quindi innanzitutto non mi darebbe fastidio acquistare una casa dove comunque per me è un orario diurno, perché se non lavoro comunque sono sveglio, e infatti è un caso che io stamattina sia sveglio perché dovevo fare delle commissioni che mi hanno imposto di alzarmi a quest'ora. E poi quindi ho mandato questo messaggio per Senta, dire... ma non andrebbero insonorizzati questi locali? Cioè, alla fine, molto banalmente, non si può fare un lavoro di questo genere. A parte la vita fuori, in giro per le strade, che anche quello è un problema. Allora, c'è un difetto da questo punto di vista dei locali, cioè che non stanno, insomma, che non prestano attenzione a questo. Un problema di educazione, se vogliamo. Assolutamente. E io posso dire innanzitutto che dalla provincia mi sono spostato su Naviglia a Milano, che è una zona, per chi conosce la città, dove c'è un movimento. Fantastico, movimento opposto dell'ascoltatore che abbiamo sentito prima. Guardi, facciamo una cosa Claudio, resti un attimo con noi, io voglio salutare Cristiano Casa, che è assessore al commercio, attività produttive, turismo e sicurezza del comune di Parma. Come saprete, al centro delle polemiche, perché prima amministrazione a 5 stelle, grossa naturalmente, d'Italia, con Pizzarotti, uno dei primi atti, non il primo naturalmente, ma uno dei primi atti è stata questa ordinanza appunto contro la movida a Parma, che ha suscitato grandissime proteste. Come vi state muovendo, Casa, in questo momento? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma quella fu un'ordinanza... giusto lo scorso anno per cercare di mettere una pezza, visto che comunque l'amministrazione Pizzarotti iniziò proprio nel periodo di maggio. Noi ci siamo mossi per tempo quest'anno, appunto in previsione di quella che è appunto la stagione della movida, quindi la stagione estiva, e abbiamo adottato un regolamento che ha con cui abbiamo, che abbiamo condiviso con tutte le parti, innanzitutto con tutti i residenti, con i residenti delle zone più impattate, con i pubblici esercizi, con i frequentatori, perché anche chi frequenta le serate di divertimento ha il diritto di essere ascoltato per capire un attimo quelle che possono essere le esigenze, con rispetto sempre per i residenti e chi deve portare avanti delle attività, con le forze dell'ordine, il regolamento è andato, l'USL anche, quindi per capire eventuali impatti anche da quel punto di vista, e poi l'abbiamo portata in consiglio, anche qui cercando di condividerla con i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, perché l'idea è che questo regolamento non deve essere un regolamento del Movimento 5 Stelle, deve essere un regolamento della città, perché alla fine questo è un tema sociale che riguarda tutti. E devo dire, siamo arrivati in consiglio, l'abbiamo approvato praticamente all'unanimità, avrà un anno di sperimentazione e abbiamo istituito dei momenti di monitoraggio. Ne abbiamo già fatto uno per cercare di capire come sta andando, quindi le cose che diciamo vanno avanti per il verso giusto e le cose e gli aspetti da migliorare. Sì. Abbiamo fatto formazione alle forze dell'ordine, quindi per spiegare, perché ovviamente non puoi fare un regolamento senza poi poterlo far controllare e applicare nel modo giusto, con gli esercenti, e poi abbiamo fatto circa 3 settimane in cui le forze dell'ordine, polizia municipale in primis, andavano in giro a fare appunto informazione e per spiegare un attimino quelli che erano gli aspetti più importanti del regolamento, e poi abbiamo iniziato ad applicarlo con dei controlli piuttosto serrati in collaborazione con la Polizia di Stato, quindi con la questura dell'Arma dei Carabinieri. L'aspetto importante di questo regolamento è che, oltre a dettare una serie di regole, che magari poi se vuole possiamo vedere anche un po' nel dettaglio, anche delle premialità, perché l'idea è, ci sono dei locali che oggettivamente lavorano in maniera seria, che meritano di avere delle attenzioni. Ci sono invece dei locali che lavorano in maniera, diciamo così, un po' meno virtuosa, che invece devono imparare a lavorare in modo corretto, nel rispetto dei diritti dei residenti, perché effettivamente questo problema esiste. Questo per quanto riguarda i locali. Io vorrei tornare dalla professoressa Zajcik anche per parlare di un elemento che forse ci sembra banale, ma probabilmente è quello che ci accennava lei in apertura di trasmissione, no? Qua si procede per ordinanze quando alla fine probabilmente è un problema banalmente di educazione, di cultura, come sempre in questi casi. Insomma, se sbatti una bottiglia per terra alle 3 di notte, insomma, non è una questione di ordinanza, insomma, no? È una questione diversa, di rispetto nei confronti della città, per esempio. Sì, volevo un attimo riprendere l'intervento precedente del presidente della federazione degli esercenti, perché in realtà mi concordo con lui su alcuni aspetti, e cioè che sempre sulla base anche di esperienze di altre città europee, il tema della gestione del territorio e quindi di una come dire di un controllo funzionale di dove vengono aperti gli esercizi e per fare che cosa, credo che sia uno dei temi e uno degli aspetti invece su cui il nostro paese e la politica in generale non ha prestato minimamente attenzione, a partire in particolare poi dalla liberalizzazione. È pur vero che le nostre città sono anche, come diranno, una struttura urbana diversa da quella di altre città europee, grandi ma anche di medie dimensioni, cioè le nostre città, diciamo, hanno tutto sommato pochi spazi ampi e anche poche piazze utilizzabili e magari anche laddove ci sono utilizzate per, come dire, far confluire momenti di movida, io poi detesto questo termine, lo so. Ma comunque chiaramente ci intendiamo, e chiaramente le piazze potrebbero potrebbero consentire una gestione del rumore diversa da quella che si ha invece in quartieri fatti da strade strette, come dire, con vicoli alti, dove chiaramente i rumori sì, vengono. Poi il problema anche nelle piazze esiste, e ci scrive Andrea Paltrinieri proprio su questo tema sulla nostra bacheca Facebook: il problema è che in Italia sono anni che non si fa più urbanistica e pianificazione del territorio. Sì. Dice: se non per sfamare la sete di oneri di urbanizzazione per le casse dei comuni, in parte è vero. Intanto vi do una notizia: finalmente è finito lo scrutinio, a quantomeno a Catania è stato eletto sindaco Enzo Bianco, visto che anche di sindaci e di amministrazioni comunali parliamo. Abbiamo aperto dicendo che insomma siamo a quanto? 18-19 ore dalla chiusura delle urne, finalmente abbiamo il risultato definitivo, quantomeno, di Catania. Una pausa per la viabilità e poi altri ascoltatori, e poi faccio chiudere Stoppani, che l'abbiamo lasciato un po' in sospeso. 9 in punto. Abbiamo pochissimi minuti e chiedo a Carmelo Lauricella, che ci accompagna oggi in regia, adesso partiamo con gli ascoltatori. Se andate sopra i 40 secondi vi abbassa il cursore e sparite. Michelangelo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, no, io volevo dire una cosa rapidissima. Questa polemica sulla movida è la classica polemica no TAV. Quindi non si può far nulla perché si sporca il giardino del vicino. Questa è la logica italiana, punto. E non riusciremo, ed è per questo che in 20 anni l'Italia non ha fatto nessun progresso. Grazie Michelangelo. Paolo da Macerata, buongiorno. Salve, buongiorno. 40 secondi. Pronto? 40 Dunque, secondi. Guardi, sì, ok, guardi, brevemente. Allora, io abito al confine fra due comuni, qui nelle Marche, fra Coridonia e Macerata. Abbiamo un locale pubblico che abbiamo, lui è sempre strapieno d'estate, con i tavoli all'aperto sotto le nostre camere da letto, nonostante che da 6 anni non si riesca a dormire. E guardi, le assicuro che non è per essere, fare il vecchio che è contro i giovani, è perché io lavoro tutto il giorno e sinceramente senza dormire poi è un macello il giorno. Beh, nonostante le nostre rimostanze, perché prendano qualche precauzione perlomeno, no? Hanno un piazzale grandissimo dall'altra parte del locale, potrebbero spostare i tavoli. Non siete, nonostante tutto questo, nonostante le proteste, non siete riusciti a far niente. Riccardo da Rovigo, buongiorno. Sì, un'esperienza personale con Circolo Arci, che ha dei limiti anche come attività all'esterno, questi facciamo attività all'esterno, musica eccetera, ho chiesto l'intervento polizia, carabinieri, finché ho dovuto fare non so quante denunce, finché si sono mossi hanno chiuso però per 15 giorni, hanno pagato una multa, poi cambiano i gestori. Il problema è che poi anche quando fanno interventi mirati e anche supportati da cose ben precise, spesso i locali cambiano gestore, si ricomincia di nuovo, iniziano calmi poi e quindi alla fine siete riusciti a farlo chiudere oppure no? È ancora aperto, adesso c'è una gestione più calma, ma io so già, aumentano piano piano, no? si allargano, perché poi c'è anche questo aspetto che cambiano i gestori, perché poi mi sono trovato... Grazie Riccardo, brevissimo. Simone da Milano, 30 secondi per lei, mi scusi, sì. Prego. Sì, salve, velocissimamente. L'ipocrisia di talune persone che vanno a vivere a ridosso di una chiesa che ha 1000 anni, o peggio ancora, vanno a vivere vicino al parco di Monza, ovvero al circuito di Monza, e hanno la pretesa e l'arroganza che non vi sia rumore. Siamo un popolo di vecchi dentro, non solo statisticamente parlando. Grazie. Grazie Simone, chiudiamo con Lino Stoppani, che ho lasciato in sospeso per un po'. Dunque, io ho una domanda molto precisa a questo punto per lei. Allora, crisi che ha già colpito duro, IVA che probabilmente aumenterà in particolare sugli alcolici, e poi le ordinanze antimovida. Qua un filo di preoccupazione c'è, immagino. Piove sul bagnato, vuol dire, tradotto in sintesi. Comunque questo della Movida è un tema molto delicato e sensibile, e con le dovute attenzioni e proporzioni, in fondo di una cosa, insomma, che le rivolte in Turchia, al di là evidentemente dei fatti e delle situazioni politiche che le hanno spinte, però ha trovato la sua presupposto nel provvedimento di Erdogan di vietare la somministrazione della birra dopo le 22, insomma, per cui è un fenomeno da gestire con grande cautela e grande attenzione, nel rispetto un po' di tutte le esigenze di tutti, non solo dei recenti ma anche dei frequentatori, cioè, della Movida. No, mi scusi, sto parlando, non starà dicendo che per le ordinanze antimovida ci ribelleremo come i turchi, no, insomma, no, ma per non dire che è un fenomeno, anche perché da gestire c'è qualcosa di sotto, con grande cautela, insomma, e sicuramente non va gestito con delle ordinanze come quella di Milano, insomma, che trovano il tempo che trovano, che hanno sollevato critiche da parte di tutti, non solo degli esercenti, ma con un minimo di lungimiranza nella programmazione del territorio che ho citato prima, anche perché poi queste ordinanze creano un altro effetto, che è il nomadismo, per cui se mi vieti di la movida sui navigli a Milano, mi sposti in un altro modo e trasferisci il problema da un'altra parte, per cui c'è bisogno di sensibilizzare, di educare. L'associazione per esempio ha emanato un codice etico per i propri associati, perché c'è anche da fare attenzione alle esigenze dei residenti, che evidentemente non possono essere non considerati. C'è un problema di sanzionare chi sbaglia anche nei nostri esercizi, e questi ci sono moltissimi casi, e qui l'amministrazione, prima di emettere ordinanze sbagliate, deve incominciare a punire chi suona dopo l'orario, chi fa dei rumori, chi non rispetta quelli che sono i limiti acustici a cui ha fatto riferimento il tecnico che è intervenuto in trasmissione. C'è da combattere l'abusivismo, per cui c'è un pubblico esercizio e di fianco al pubblico esercizio ci sono degli ambulanti che fuori orario somministrano alcol, eccetera, per cui è un tema estremamente importante e complicato, che va affrontato con grande responsabilità anche da parte nostra, ma le ordinanze, i provvedimenti spot tamponano ma non risolvono assolutamente niente. Mi scrive su Twitter Erika Sirgiovanni, dice: il problema è di metodo, la comunicazione non segue le decisioni, le precede e le accompagna. Da questo punto di vista Pisapia paga errori gravi. Lui evidentemente, come anche qualcun altro che queste ordinanze le ha varate nel corso degli anni. Grazie a Cristiano Casa, scusi se l'ho fatta parlare poco, magari quando ci torniamo sul tema la prendiamo per un po' più di tempo. Grazie Francesca Zajcik, grazie Lino Stoppani. Gli altri ringraziamenti, quelli di casa: Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella, ve l'ho già nominato prima, in regia, al centralino Giulia e Sabrina, e un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, se volete continuare a discutere di questo tema, che come avete sentito resta piuttosto caldo, www.facebook.com/9in.radio24. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 20 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.